disignitatuigratis.blogspot.com. I tatuai donna piccolo sano di sempre I puget minotti. Pisano a serializzati in ogni parte del corpo occupando poco spazio e pisano restare privati. Alcune del zone pugetinate per questi tatuai donna sono la dita, dietro la orecchie, coperti di capelli, il polso, la caviglia e la pianta del piede. Ottimi esempi di tatuai piccoli sono la stella, la iniziale, ancora o denumeri. Tatuai piccoli, significato tatuai.